Il progetto comunque va gestito e organizzato da Biblioteca Cabral, una biblioteca conosciuta per chi abita a Bologna, ha avuto sempre intenzione di fare e creare dialoghi, diciamo. Poi è partito da lì, poi tra i musei bolognesi abbiamo scelto il Museo Medioevale di Bologna, perché con i temi che trattiamo quest'anno, in cui abbiamo trovato un sacco di opere e argomenti che magari hanno questa capacità, potenzialità di aiutarci per fare questo dialogo tra mondi diversi, diciamo, mondo europeo e in questo caso quest'anno il mondo iraniano, islamico e in modo un po' più generale il mondo artistico, culturale e medio orientale. Poi intervengono altri esperti teorici, almeno da 22 dicembre in poi, ma comunque iniziamo al Cabral, due incontri lì, poi due incontri al Museo Medioevale. Quindi la base del progetto sono fatti, faranno, lo facciamo in questi luoghi, in due luoghi. Poi c'è anche un Migrant Tour che facciamo in Bolognina con Next Generation. E questo succede in Bologna. Ecco, questi saranno i luoghi, insomma, dove si svolgerà Traiettorie di Sguardi 2023. Ora passiamo Esatto. invece alle tematiche che hai deciso di affrontare appunto quest'anno. Certo, quest'anno mentre abbiamo questo progetto di, diciamo, decolonializzazione dei pensieri, come sempre, come lo fa sempre Cabral, creare i dialoghi, io da iraniano, mentre sono stato invitato come un artista iraniano, ho cercato di un po' trattare temi come le atmosfere culturali e artistici che a volte condizionano gli artisti, o non solo gli artisti, anche persone normali che a volte vivendo negli altri contesti, che non è il contesto culturale in cui sono formati, magari si trovano davanti ai nuovi pensieri che, non avendo la capacità di studiare il passato, di studiare i pensieri originali, creano problemi per fare il dialogo. È una cosa da una parte, è una cosa che può studia dall'altra parte l'artista o persona, una persona normale che vive da un altro contesto, ma dall'altra parte aiuta anche un paese ospitante, un paese occidentale, per poter sempre creare i contatti, il dialogo. Poi io molto di più sono andato anche verso creare un sguardo quasi critico verso questa categorizzazione che spesso, naturalmente, storicamente succedono nei musei. Per esempio, basando sul contesto di decolonializzazione, ho pensato che magari alcuni temi, categorie, titoli, come per esempio, faccio un esempio, arte islamica, arte orientale, arte nordafricano, questi contesti, queste categorie a volte non funzionano per chi viene da questi luoghi. Quindi ho cercato di focalizzare molto sui pensieri che formano alcune categorie che viviamo in musei europei. Poi io vado molto sul discorso dello stile, di ispirazioni, di tradizioni, di tecnica, molto basato sull'aspetto visivo delle opere e dei pensieri. E così cominciamo così, poi un po' andando verso i dettagli, ci sono come la base, perché noi abbiamo scelto Museo Medioevale, abbiamo anche come il periodo, abbiamo scelto Medioevo. Secondo me è stato un periodo in cui abbiamo avuto molti materiali per fare questo paragone, questo dialogo tra due mondi che abbiamo considerato. E quindi tecnicamente vado molto verso miniatura, fare i paragoni un po' legato al mondo in cui, ai pensieri in cui sono stati creati queste miniature, queste opere d'arte, al di là di categorie prima di cui ho parlato. Ecco, quando si inizia con il progetto e come si può partecipare? Non so se c'è ancora qualche posticino libero. Mi hanno detto che i posti che i partecipanti dovevano essere 12, mi sa che abbiamo già 12 partecipanti, non so se ci sono altre occasioni, magari ancora più spazi, ma comunque sul sito di Biblioteca Cabral ci sono tutti i dettagli per iscrizione. Il primo incontro sarebbe 8 novembre che è un po' un tipo di introduzione in cui presentiamo il progetto, ci sarò io, poi Migrant Tour sarebbe l'11, poi torniamo al Cabral 15, sempre novembre, poi abbiamo due visite guidate in cui lavoriamo su un fanzine che dobbiamo fare, perché è basato su tutti i discorsi, tutti gli argomenti che trattiamo, io ho intenzione di arrivare a fare un progetto molto basato sul visivo, in cui i partecipanti disegneranno, o non sempre disegneranno, magari descriveranno, certo. Città ideale. Quindi il tema principale di Fantin, che lo facciamo in collaborazione con Canicola Edizioni, è molto basato sull'idea di città ideale, che secondo me per tanti artisti, al di là di tutti i discorsi tecnici, teorici, è stato sempre un desiderio, sia europei, sia iraniani, sia persiani, sia turchi, sia arabi, è un po' come un argomento universale, questo desiderio per arrivare a formare, disegnare, realizzare città ideale. Poi eventualmente il 20 dicembre, se facciamo tutto in tempo, sarebbe la festa finale di presentazione, anzi nel progetto, sempre a Capran.